Avrei voluto che la rabbia con cui mi sono congedata da Filippo mi durasse un po' di più. Sarebbe stata meno angosciante quella prima notte senza di lui, distesa sulle lenzuola fredde nella camera reale del palazzo arcivescovile di Alcalá de Henares. Ho pensato alle speranze nutrite durante il viaggio fin lì, la corte e il palazzo che la mia immaginazione aveva popolato di volti e di mobili in cui avevo sognato di vivere con mio marito e i miei figli in terra spagnola. Ho ricordato il desiderio e la trepidazione crescente per quella nottata in cui vi saremmo ritrovati. Desolata, mi sono pentita di tutte le parole piene dette con risentimento. Le ripassai a una, le ripetei, pensai all'effetto nefasto che avevano avuto entrando con le loro punte affilate nella coscienza di Filippo. Ora mi odierà, pensai, e non mi perdonerà mai. Distesa al buio, ripetei ad alta voce le frasi che ricordavo di aver pronunciato. Volevo afferrare il suono della mia voce e comprimerlo in aria come chi scaccia insetti e li schiaccia. Vedevo Filippo che cavalcava per le aride montagne della Castiglia, sferzato dal vento che avrebbe portato l'eco dei miei insulti. Non dormii finché non mi imposi il castigo del silenzio come penitenza per la mia impulsività. Mi proposi di non parlare, di sforzarmi a non proferire parola per un bel po' di tempo. Mia madre non capiva il mio mutismo. Si sedeva accanto a me tentando di fare conversazione. Mi chiedeva di prendere un po' di brodo, un'altra pietanza. Io morivo di fame, di sete, ma mi ero proposta di tenere la bocca chiusa. Per 2 o 3 giorni non feci altro che piangere. Infine Beatrice mi convinse a mangiare per mio figlio, per quell'uccellino che incessantemente beccava la vita dentro di me. Il bambino esigeva che io vivessi, mi piantava i piedi nelle costole. Vennero preti, monache. Il cardinale Jiménez de Cisneros veniva tutte le mattine, prima di recarsi all'università che aveva fondato, a informarsi sul mio stato d'animo. Lo ascoltavo perché mi portava notizie di Filippo. Seppi così delle vicissitudini di mio marito durante i 2 mesi impiegati per raggiungere la frontiera francese, perché mio padre aveva tentato di ostacolarlo, ordinando che gli si negassero cavalli e persino ospitalità nei castelli, con il pretesto dell'imminente guerra con la Francia. Pensai che forse tanti problemi avrebbero obbligato Filippo ad esistere, mi illudevo, credendo che sarebbe tornato indietro, ma non fu così. Alla fine mio padre si convinse che l'ostinato genero non avrebbe ceduto e decise di desistere e affidargli il compito di rappresentare la Spagna nelle trattative con il re di Francia per risolvere la disputa su Napoli. Capì chiaramente che il mio sposo non sarebbe ritornato sui suoi passi. Il 10 marzo 1503 diedi alla luce mio figlio Fernando, senza molto dolore e senza complicazioni. Le campane suonarono a stormo nel palazzo arcivescovile di Alcalá de Henares per festeggiare la nascita in Spagna del mio secondo figlio maschio. Assomigliava a me e non aveva il mento pronunciato e affilato degli Asburgo che aveva ereditato il mio piccolo Carlo. Pensai che finalmente avrei potuto ritornare nelle Fiandre da Filippo e dai miei figli, ora niente me lo avrebbe impedito. Sollevata, dormii per 2 giorni di seguito. Pochi giorni dopo arrivò un cavaliere da Lione con un regalo da parte di Filippo, una bellissima collana d'oro con 7 perle enormi che rappresentavano le 7 lodi alla Vergine Maria. Anche se i vestiti neri erano tornati a essere l'abbigliamento ufficiale della corte, rifiutai di portare il lutto il giorno del battesimo di Fernando. Indossai un vestito color granata con guarnizioni dorate e con una profonda scollatura sulla quale spiccava il regalo di Filippo. Per la presentazione al tempio insistetti per portare io stessa in braccio il mio bambino. Durante la cerimonia nella cattedrale, il vescovo di Malaga, Diego Ramírez de Villaescusa, lo stesso che aveva officiato il mio matrimonio, mi coprì di lodi durante l'omelia. Affermò che Dio mi aveva premiato con figli sani e che, come la Vergine Maria, io giocavo e ridevo durante i parti. 50 giorni e 50 notti, aggiunse, non sarebbero stati sufficienti per enumerare le mie virtù. Anche se esagerava con le adulazioni, lo ringraziai di cuore perché alle sue preghiere non solo erano presenti mia madre e mio padre, ma anche tutti i grandi del regno. Io avevo bisogno di difensori, dato che qualsiasi cosa facessi veniva interpretata come capriccio. La mia tristezza e malinconia a causa della lontananza dei miei figli, persino la mancanza di appetito, veniva attribuita a debolezza della mia mente o a dissennatezza. Questa tendenza generale a dipingermi in maniera negativa e a presentare Filippo e me come una minaccia per la stabilità e gli interessi della corona fecero sì che il mio sposo stabilisse che nessuno poteva entrare al mio servizio senza la sua approvazione. Alla nascita di Ferdinando, però, i miei genitori ignorarono la volontà di Filippo e aggiunsero più di 70 nobili spagnoli al mio seguito. Io ero al centro di una lotta sorda, del cui proposito mi accorsi con il passare del tempo. Passavano le settimane senza che nessuno desse retta alle mie insistenti richieste di ritornare nelle Fiandre. Quando, impaziente, proposi di andare a Lione per riunirmi al mio sposo, mi obbligarono ad esistere con le stesse motivazioni date a Filippo. Non potevo rischiare che i francesi mi tenessero in ostaggio per ottenere vantaggi nella guerra di Napoli. Quando chiesi di fare il viaggio per mare, mi fu detto che non sarebbe stato possibile se non dopo la primavera, perché i marinai della Biscaglia prevedevano una stagione molto burrascosa. Attraverso il comportamento generale, i frammenti di conversazione e le voci che non mancavano mai, cominciai a capire che mia madre pensava di trattenermi in Spagna. Era certa che il tempo avrebbe portato l'oblio e che a mia volta avrei accettato il sacrificio di separarmi da Filippo per amore del mio mandato regale. Confidava sul fatto che avrei anteposto i miei doveri di Stato ai miei doveri di sposa e di madre, e che avrei preferito il potere politico alle gioie dell'amore domestico. Più mi rendevo conto dei desideri di mia madre, più mi assaliva la rabbia. Fui presa dall'ossessione di sfidarla. Mi proposi di distruggere la sua pace e la sua armonia, di amareggiarle ciascuno dei giorni in cui mi obbligava a muovere i miei passi nei corridoi del palazzo. Volevo che arrivasse a desiderare intensamente la mia partenza. Avremmo visto chi delle due si stancava prima. Non mi fu difficile mettere in atto i miei piani, perché ero in preda alla rabbia e alla disperazione. Affidai il piccolo Ferdinando alla nutrice, e in mancanza di alleati, di eserciti o di altre armi, usai la mia unica risorsa: il mio corpo e la mia volontà. Isabella non si sarebbe mai aspettata un simile livello di dura resistenza da me. Ma io avevo la tempra di una regina. Potevo passare giorni interi senza mangiare, seduta sul letto con lo sguardo fisso, rifiutando tutto e tutti. Mia madre ordinò che le corte si trasferissero ad Alcalá de Henares, e mattino e sera, tra una gestione e l'altra delle questioni di Stato, mi visitava e mi incitava a uscire dal mutismo. Io non facevo altro che ripetere la mia richiesta, che mi lasciasse andare nelle Fiandre per riunirmi a Filippo e ai miei figli. Perdevo peso, però, a vista d'occhio. Ero pallida, scarmigliata, non mi curavo del mio aspetto, come se niente che avesse a che vedere con la mia persona mi importasse. Voglio che mia madre provi vergogna per le parole dei cortigiani che mi vedono giorno dopo giorno come mi spengo. Voglio che tema per la mia vita, per la mia salute. Voglio che evochi il fantasma di mia nonna, che si ricordi di sua madre, che vagava insonne per il palazzo di Arevalo con lo sguardo perso nel vuoto. Quei ricordi sono un frammento di inferno nella sua memoria, e io soffio su queste fiamme, senza pudore né rimorso, perché in questi giorni ciò che provo per mia madre assomiglia sempre più all'odio. Appena sento nel corridoio i suoi passi che si avvicinano e le voci delle persone che la accompagnano nelle sue visite quotidiane, il mio sangue incomincia a gorgogliare come acqua che bolle nella caldaia del mio ventre. Non mi costa niente sfidarla quando rimaniamo sole. Io che da bambina mi sentivo intimorita davanti a lei, ora l'aspetto senza batter ciglio. A volte semplicemente non le rispondo, non reagisco quando con timore prende le mie mani tra le sue. Lascio vagare la mia mente e immagino il mio clavicordo e gli spartiti musicali finché non se ne va, impotente e depressa. Altre volte piango o le parlo dei miei figli. Madre, tu non senti forse la mancanza dei tuoi figli morti, di Isabella, di Giovanni? Non ricordi quando erano tanto piccoli da stare tra le tue braccia? Non ricordi i loro sorrisi, il rumore dei loro giochi? Non immagini mai di strapparli alle loro tombe e riportarli all'infanzia? Io immagino i miei figli a Bruxelles e mi sembra di sentire quello che pensano della loro madre che li ha abbandonati. Non so, mia signora, come possa farmi questo tu che dici di aver sofferto tanto per quelle assenze. Oppure non hai mai provato affetto per noi, madre? Non hai mai sentito niente? E per questo ora non riesci a spiegarti come io possa essere tanto ansiosa di rivedere i miei figli? Altre volte le ricordo i tormenti della gelosia. Ricordi, madre, di quando hai saputo che mio padre aspettava un figlio da un'altra donna? Lo hai immaginato mentre accarezzava un altro corpo, con quelle stesse mani che ti cercavano di notte? Non hai sentito forse come io la sento, una bocca con denti affilati che ti divora dentro? Ah, Filippo è giovane, non resisterà a lungo senza amore e quando cercherà un'altra che cosa succederà? Se i suoi baci gli sembreranno più dolci dei miei e la passione proibita gli sembrerà più vibrante, più fantasiosa, soltanto tu sarai colpevole della mia disgrazia. Oh, che cosa bisogna fare perché le pietre abbiano un cuore? Non voglio essere mai regina se devo per questo diventare dura e sorda come te. La regina mi chiedeva di avere pazienza, mi ingannava dicendomi che avrei potuto mettermi in viaggio non appena il tempo fosse stato propizio. Poi mi rimproverava, ripetendomi di pensare a quanto fosse più grande il destino del regno di quello di ciascuno di noi. Il volto pallido, gli occhi azzurri, i ricci dorati che sfuggivano dalla cuffia le davano l'aspetto di una vergine di cera, distante e priva di calore. La rabbia faceva diventare rossa me e faceva impallidire lei. Spesso le nostre conversazioni terminavano con pungenti frasi ostili. Io non cercavo di impedire al mio cuore di esprimere ciò che sentiva. Negavo a mia madre rispetto e considerazione. Perché mai avrei dovuto sottomettermi a lei. Non sopportavo di essere la sua vittima e mi rifiutavo di porgere l'altra guancia. Beatrice mi rimproverava. Affermava che questi dispiaceri avrebbero aggravato la malattia della regina e che io agivo in modo tale da alimentare la voce della mia follia. Ah, che dicessero quello che volevano! Chi nasce servo, sottomesso e obbediente, manca di volontà e non sa affermare la sua indipendenza. Ma io ero nata principessa. Sarei diventata regina e non chiedevo nient'altro che quello che mi toccava di diritto. Avrei voluto vedere chi mi accusava di demenza nella mia situazione. Non riuscivo a comprendere come mia madre potesse considerare giusto che io anteponessi la mia lealtà verso di lei ai doveri verso mio marito e i miei figli. Questa pretesa era soltanto il prodotto dell'ostilità che lei e mio padre nutrivano per Filippo. Non gli perdonavano la fedeltà che sentiva per la sua terra, né che insistesse nel decidere per conto suo il futuro nostro e dei nostri figli. Filippo era riuscito a negoziare una tregua con Luigi di Francia, basata su un accordo che contemplava di dividere Napoli tra la Francia e la Spagna finché il matrimonio di Carlo e Claudia non l'avessero posta sotto la corona unificata di entrambi i regni. Fino a quando i principi non avessero raggiunto la maggiore età, Filippo si sarebbe occupato della reggenza della parte spagnola e Luigi avrebbe nominato un reggente per la parte francese. Di questa tregua, chiaramente favorevole a un mio ritorno accanto a Filippo, io non fui informata per esplicite disposizioni di mia madre e non lo avrei saputo se non fosse stato per Beatrice de Bobadilla che aveva sfidato il divieto della regina e me lo aveva detto. Mia madre ed io eravamo partite da Alcalá de Henares per Segovia. Mi avevano fatto credere che oltre a sfuggire il caldo iniziavamo il viaggio verso il nord del paese, che eventualmente mi avrebbe portato di ritorno dal porto di Laredo alle Fiandre. Come prima, tuttavia, le settimane si sommarono una all'altra senza alcun accenno di proseguimento del viaggio. Il disaccordo tra me e la regina arrivò a un livello tale e tutte e due eravamo tanto sconvolte e avvilite che i medici reali Soto e De Juan convinsero finalmente mia madre che non potevamo continuare a condividere gli stessi spazi. Si dispose che io andassi a Medina del Campo, al castello di La Mota, sempre in direzione nord. In quel castello, dagli alti merli, dalle mura monumentali, in un paesaggio arido e rossiccio, arrivò finalmente l'estate in cui io avrei già dovuto essermi imbarcata da tempo. Era passato il mio primo anno di separazione da Filippo e dai miei tre figli maggiori. La disperazione causata dall'impotenza mi distruggeva lo stomaco. Senza appetito, mi mancavano le forze e non desideravo fare altro che dormire. Pensavo ossessivamente a Filippo e alla sua passionalità riversata in una lascivia senza obblighi. Immaginavo la sua lingua sulla schiena di donne prosperose e sensuali che lo inebriavano di corpi nudi. Queste fantasie mi eccitavano fino al piacere più intenso, lasciandomi stremata, inondata di lacrime e di sudore. Smisi di lavarmi, di pettinarmi, di Che mi importava di andare in giro sudicia e scarmigliata, se non ero altro che una miserabile prigioniera in quei corridoi austeri? A quale dignità potevo ricorrere se la mia libertà veniva calpestata in questo modo? Al tramonto percepivo l'oblio crescente dei miei figli. Un altro lineamento del mio volto che scoloriva nei loro ricordi come il giorno morente si spegneva nei campi di Castiglia. E così vedevo anche scomparire l'amore di Filippo, un liquido rosso dentro al suo cuore che si consumava giorno dopo giorno e che si sarebbe presto esaurito. I pensieri angoscianti soffocavano la mia voglia di vivere. Mi rifiutavo di mangiare, decisa irrevocabilmente a morire. Era arrivato novembre. Alla mota risuonavano ancora nell'aria i canti del giorno dei morti, quando una sera in cui il mondo sembrava immerso nel vapore acqueo, comparve un cavaliere con una lettera di Filippo che Beatrice mi consegnò. Lei rimase accanto a me, aspettando con ansia la mia reazione. Le tremavano le mani. Temeva la foga del mio sconforto. Lessi la lettera davanti alla finestra, mentre la nutrice tratteneva il mio piccolo Ferdinando che tentava di mettersi in piedi, afferrandosi alle mie gonne. Fin dalle prime righe capii che era una lettera d'amore. Non poteva più vivere senza di me, diceva. Dovevo trovare la maniera di ritornare nelle Fiandre. Mi dava il nome del capitano di una nave laniera disposto a fare il viaggio in nave non appena glielo avessi ordinato. Come un orso che esce dalla grotta, dopo aver superato il più freddo degli inverni, così il mio cuore si sollevò dentro di me, scosso dal desiderio di correre veloce, affamato tra le braccia del mio sposo. Ordinai di riempire catini di acqua tiepida per fare un bagno, ordinai di prepararmi da mangiare, convocai le mie dame di compagnia più fidate e comunicai loro la mia decisione di partire al più presto per Bilbao. Nessuno al di fuori di loro doveva saperlo, dissi. Segretamente avremmo preparato i bagagli per partire nel giro di 2 giorni. Povera me, però. Mentre noi, come api sul punto di lasciare l'alveare, ci preparavamo, il capitano Ugo de Urries, in aperta sconfessione del mio volere e di quello di Filippo, scrisse a mio padre mettendolo al corrente dei nostri piani. Le mule da carico erano già pronte. Con mio figlio Ferdinando in braccio, controllavo nel cortile del castello che i bauli che contenevano vestiario, libri e provviste fossero ben fissati. Quando udimmo un drappello che si avvicinava. Cavalcando sul ponte levatoio entrò al galoppo attraverso le porte aperte colui che era stato mio amico e consigliere, Juan de Fonseca, vescovo di Cordova. Dal momento in cui lo vidi avvicinarsi alla testa di un gruppo di soldati mi si afflosciarono le gambe. L'improvvisa comparsa poteva significare soltanto nuovi ostacoli. Il vescovo smontò, si inchinò con una rispettosa riverenza davanti a me e mi chiese di spiegargli il motivo di quella carovana. Me ne vado, gli dissi. Mio marito mi aspetta nelle Fiandre e devo riunirmi a lui. Perdonate, signora, ma come mai la regina vostra madre non è stata informata e non ha dato il suo consenso? Come potete pensare di andare via senza congedarvi da lei? È una questione tra me e mia madre. Né lei né nessun altro potete obbligarmi a rimanere ancora lontana dai miei. E dove vi dirigerete? Il capitano Urries ha rinunciato alla sua missione su richiesta di vostro padre. Nessuna imbarcazione vi aspetta più a Bilbao. Al mio fianco, Beatrice e Madame de Halleven si avvicinarono, mi presero a braccetto, offrendomi la loro protezione. Io mi infuriai, il mio corpo si trasformò in un mare di lava e una rabbia gassosa e sibilante proruppe dalle mie viscere. Non mi importa se quello sciagurato capitano ha pensato bene di tradirmi, esclamai. Io attraverserò la Francia. Non sapete forse che la Francia è in guerra con la Spagna? Con la Spagna sì, ma non con me. Andiamo, gridai, liberandomi dalle dame che mi proteggevano e dirigendomi al centro del cortile. Poi rivolgendomi ai servi che aspettavano esitanti, andate, andate avanti con i preparativi. In nome di Sua Maestà la Regina Isabella vi ordino di fermarvi, gridò il vescovo e fece segno ai soldati di chiudere le porte del castello. Ve lo proibisco! Gridai io. Qui non si chiude nessuna porta finché io non vado via. Giovanna, Giovanna, io obbedisco soltanto agli ordini della nostra signora, la regina, vostra madre. Fatemi il favore di calmarvi, mi sussurrò il vescovo. Il richiamo a mia madre dissipò qualsiasi tentativo di imporre la mia autorità. Senza ascoltare i miei frenetici richiami, i soldati procedettero ad alzare il ponte levatoio e a chiudere le porte. Intimorite, le mie dame indietreggiarono e i servi cominciarono a slegare le corde e a scaricare i bagagli dalle mule e dai carretti. Io andavo dall'uno all'altro imprecando contro la loro remissività, ma l'unica cosa che ottenevo erano occhiate di compassione e di timore. Fui presa dalla disperazione. Il vescovo era uscito dal castello prima che si alzasse il ponte. Lasciai Ferdinando in braccio a Beatrice, salii sul parapetto dietro le mura, lo avvistai all'altro lato del fossato e gridai che se non mi lasciava andare via da lì l'avrebbe pagata cara quando sarei diventata regina. Li avrei fatti impiccare tutti! Esclamavo fuori di me. La mia ragione si rifiutava di accettare che potessi essere umiliata e calpestata in quel modo di fronte alla mia corte. Credo che a un certo momento mi scagliai contro i soldati che sorvegliavano la porta. I poverini subirono i miei insulti finché non intervenne Beatrice. Il sapore di bile mi riempiva la bocca secca. Impiegai molto tempo a placare la girandola di volti apparsi ai miei occhi nell'andirivieni sfrenato per il cortile del castello. Quando riuscii a tornare in me, inviai un cavaliere a fermare il prelato per tentare di convincerlo con le buone di lasciarmi andare e per scusarmi della mia mancanza di riguardo, ma quest'ultimo mandò un mio messaggero, Miguel de Ferrara, per farmi sapere che non aveva pazienza sufficiente per ricevere altri insulti e sgarbatezze e che quella sera stessa avrebbe informato la regina del mio comportamento. La sua risposta ferì il mio orgoglio. Mandai di nuovo Ferrara per riferire a mia madre che né la pioggia né il vento mi avrebbero fatto rientrare nel castello di La Mota. Sarei rimasta nel cortile, nello stesso punto in cui mi aveva lasciato, in attesa che mi aprissero le porte e mi permettessero di andar via. E lì rimasi. Mi appoggiai alla garitta della guardia all'entrata del castello e chiusi gli occhi. A poco il ritmo sfrenato del mio cuore si placò e si estinse il fuoco che mi avvampava il viso, le mani e il ventre. Le guardie e i servi si ritirarono rispettosi. Rimanemmo nel cortile due soldati di mia madre, Beatrice e io. Con la coda dell'occhio vedevo la gonna di Beatrice, seduta a prudente distanza alle mie spalle. Avrei mantenuto la mia parola. Non sarei rientrata nel castello che soltanto poche ore prima avevo lasciato, leggera e felice. Nel suo interno cupo e monumentale sarei stata assordata dall'eco dei miei progetti e delle mie visioni ottimistiche che crollavano come una torre di travi tarlate. La prospettiva mi dava la nausea. Che destino il mio, quello di dovermi sottomettere a volontà decise a domarmi come una fiera selvaggia. Tentavo di ragionare, ma la mia mente mi restituiva solo l'immagine di un corridoio angusto e infinito, pieno di un denso fumo bianco. Asfissiavano il mio nome, le porte chiuse, la mia dipendenza assoluta. Il mio corpo era diviso, la gamba sinistra dalla destra, ciascuna legata a cavalli vivaci che si sfidavano in una corsa folle senza rendersi conto che mi stavano squartando. Al cadere della notte cominciò a fare freddo. Beatrice si avvicinò con alcune coperte, ma le ordinai di lasciarmi sola. Dentro la garitta, un soldato dal volto compunto che osava appena rivolgermi lo sguardo, accese con discrezione un fuoco. Se non fosse stato per questo, forse mi sarei congelata. Il suo gesto mi commosse e piansi a lungo in silenzio. Mi distrassi contando le lacrime, pensando a quanto il pianto fosse strano, quanto il fatto che il dolore e la compassione ci escano dagli occhi sia insolito. Peggio di quella notte furono il giorno e la notte seguenti. La tristezza si fece più profonda e non ci fu parte di me che non ne fosse inondata. Priva di forze, mi trasformai in un mucchietto di abiti appoggiato al muro come se mi fossi dissanguata. Credo che sarei morta ed era ora, ma cominciò a piovere e accettai l'offerta della guardia di rifugiarmi dentro la garitta. Si chiamava Sebastiano ed era andaluso. La mattina del terzo giorno udii il rumore lontano di zoccoli di cavalli, di molti cavalli, e capii che mia madre stava arrivando. Di quell'incontro, l'ultimo, mia madre si sarebbe più tardi lamentata, accusandomi di aver pronunciato l'impronunciabile, ma non le dissi niente che una figlia addolorata non avrebbe osato dire a sua madre. Non la insultai, ma le rinfacciai la sua mancanza d'amore, la sua volontà di sacrificarmi per ragioni di Stato, la sua incapacità di amare nient'altro che i suoi domini. Le dissi che era arida, come una landa desolata, che aveva usato tutti i suoi figli come moneta di scambio per espandere il suo potere e i suoi territori. Maledissi la vita che mi aveva dato lei come madre. La mia unica vera madre, le dissi, era stata la mia nutrice, Maria de Santi Esteban. Le augurai una morte dolorosa e solitaria perché espiasse le sue colpe e soffrisse la solitudine che tanto crudelmente mi aveva imposto. Mi fece piacere notare il suo disagio mentre le parlavo senza posa, ansiosa di liberarmi delle parole che mi avrebbero corroso se le avessi tenute dentro. Restava poco di quella ragazza da cui si era congedata a Laredo, di quella che si era rannicchiata tra le sue braccia mentre infuriava la tempesta, e proprio lei si era assunta il compito di distruggermi. In quell'incontro, però, mia madre si era riservata l'ultima stoccata. Avrebbe dato il suo consenso al mio viaggio, disse, se accettavo che il piccolo Ferdinando restasse in Spagna per essere educato da mio padre e da lei come un principe spagnolo. Questa era la sua condizione per lasciarmi partire. Se accettavo di andarmene senza mio figlio, avrei potuto imbarcarmi all'inizio della primavera.